Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Stop alla monocultura delle rinnovabili elettriche, più costose e meno efficienti è il momento delle rinnovabili termiche. Questo è l'appello lanciato al governo e alle regioni nel corso della terza conferenza nazionale sulle rinnovabili termiche, promossa da Amici della Terra, che ogni anno torna, diciamo, offrendoci un punto di vista un po' diverso da quello dominante su tutta questa partita della green economy e dell'energia. Ne parliamo di questo appello con Tommaso Franci, che è collaboratore di REF, Ricerca Economia e Finanza, che a suo tempo già attivò un osservatorio proprio sulle rinnovabili termiche. Buonasera Franci. Salve, buonasera a voi. Allora Franci, ci ricordi quali sono le motivazioni intanto che vi portano a lanciare questo appello, che qui a Radio 24 non è che trovino voce oggi per la prima volta? Certo, già in occasione dello studio di REF ne parlammo, sono emersi i dati più importanti, e cioè che le rinnovabili termiche sono in qualche misura già competitive, non hanno bisogno di incentivi. Quando hanno bisogno di incentivi ne hanno bisogno di pochi, perché il differenziale di costo è poco e perché l'industria italiana ha delle posizioni molto forti nella produzione di queste tecnologie. Questo penso che già basterebbe per porsi il problema sul fatto che a queste tecnologie è stata riservata quasi nessuna attenzione, e invece sono state investite risorse enormi sulle elettriche, sulle, appunto, le tecnologie più costose come il fotovoltaico, e spesso avendo, diciamo, ricadute scarsissime sull'industria italiana, che è poco presente in queste tecnologie. Ecco, quando parliamo di rinnovabili termiche ci riferiamo ad un ventaglio abbastanza ampio di tecnologie, si va dalla stufa a pellet, alla pompa di calore, fino al pannello solare, eccetera, la geotermia, e queste sono le ragioni che erano presenti anche 2 o 3 anni fa, per la verità, e sono presenti anche oggi. Voi però rivolgete una critica precisa al governo per le scelte che ha fatto per quanto riguarda l'ultimo decreto, insomma quello delle rinnovabili elettriche, e forse il non decreto, l'assenza di un decreto per quanto riguarda invece le termiche. Certo. La nuova direttiva, un salto di qualità sulle rinnovabili l'aveva fatto, perché l'obiettivo non è più un obiettivo solo sull'elettrico, solo sui trasporti, è un obiettivo su tutti i consumi di energia, finalmente anche quelli termici. Già questo dovrebbe far capire che nel momento in cui si decidono questi obiettivi e si decidono anche le politiche di sostegno, quindi anche le risorse che vengono destinate agli incentivi per i diversi tipi di rinnovabili, elettriche o termiche, si dovrebbe fare un'analisi costi-benefici congiunta. Metterli a confronto, insomma. Certo, oltre che poi le altre ricadute, per esempio quali sono le tecnologie dove l'industria italiana è più forte. Certo. Invece, qual è la critica prima veramente? È che di nuovo viene data la priorità alle rinnovabili elettriche senza fare questa valutazione. Di nuovo stiamo a parlare solo delle elettriche, per le quali perlomeno un decreto esiste, poi a molti non piace questo oggetto, diciamo, di discussione, mentre sicuramente per le termiche il decreto che stabilisce gli incentivi, tanti o pochi che siano, comunque quello diventa un quadro di riferimento entro cui si muovono gli operatori, quel decreto a tutt'oggi manca. Senta, giusti o sbagliati, insomma, che fossero gli incentivi che sono stati erogati al mondo delle rinnovabili elettriche, hanno creato delle realtà industriali, alcune molto fragili, totalmente dipendenti dagli incentivi, altre un pochettino più solide. Sarebbe comunque un delitto distruggerle con scelte di politica di incentivazione troppo traumatiche. Non crede che, insomma, ci sia comunque questo problema? E vi chiedo a questo punto voi che cosa ne pensate per quanto riguarda gli incentivi alle termiche tanto attese. Forse la lezione che dobbiamo imparare a questo punto è che con gli incentivi bisogna andarci molto piano, soprattutto quelli alla domanda. Certo. Bisogna trovare altri modi per favorire. Certo, io capisco che le politiche, la dissennata politica di incentivazione fotovoltaica ha creato una bolla nel nostro paese. Esatto, che dovremmo cercare di sgonfiare invece che fare esplodere. Ecco, mettiamola però, così. Io vorrei, siccome credo che il grosso sia legato all'attività di installazione e non tanto e non solo alla produzione di pannelli fotovoltaici, io credo che se si disegnassero dei quadri di incentivazione per l'efficienza delle rinnovabili termiche con un orizzonte 2020 chiaro, come è stato detto oggi anche dal sottosegretario all'ambiente Fanelli, io credo si creerebbero le filiere, in gran parte poi sono sempre legate alle attività di installazione. Si tratta sempre di essere sui tetti e di appoggiare dei pannelli, insomma, lei dice. Ora non è così semplice, certo, la certo, cosa, certo, perché sulla qualità, però diciamo che non siamo in campi così diversi e credo che dando semplicemente uno scenario chiaro di sviluppo di queste tecnologie nel paese, di transizione, io credo che non sarebbe difficile orientare a una riconversione una larga parte delle attività che sicuramente hanno trovato un'opportunità nei soldi facili del fotovoltaico in questi ultimi anni. Ma mi sembra più importante il ragionamento sugli incentivi e che non bisogna ripetere gli errori. Allora, per le rinnovabili termiche credo che gli incentivi ce ne vogliono molti meno, perché ne hanno meno bisogno, intanto non sono competitive, ne hanno meno bisogno, bisogna partire appunto da quelle più vicine alla competitività, e poi ci sono altri strumenti molto importanti. Proprio il 31 maggio, che è il secondo giorno della conferenza delle fonti rinnovabili termiche, entra in vigore in Italia l'obbligo di integrazione delle rinnovabili negli edifici nuovi fortemente ristrutturati, minimo 20% per i consumi termici. Questo strumento, quello degli obblighi, insomma, invece che incentivare, obblighiamo in caso di ristrutturazione. Obblighi, teniamo conto di edifici nuovi ristrutturati, dove il differenziale è minimo quando si costruisce una casa, insomma, nuova, si fa un impianto nuovo di sana pianta. E queste percentuali potrebbero essere alzate, oppure le ristrutturazioni, non solo quelle sopra 1000 metri quadri, anche quelle più piccole, un grande volano. Per quelle competitive, cioè quelle che già, come si ricordavamo, si diffondono nel mercato, se lo facessimo sapere, per esempio spendendo un po' nell'informazione, probabilmente avremmo degli impatti molto importanti con risorse limitate. Grazie Tommaso Franci. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.